già avevo il 750 del Badì nuovo rofo sotto, e già avevo quella baracchino lì, quel 48 lì sotto, e il 750 della ZG. È successo che si è rotta la centralina del camion. Si è rotta la centralina del camion, e allora cosa è successo? Quando è stata messa nuova la centralina, allora avevo tolto quel baracchino lì, l'ho tolto anche il lineare. L'ho tolto tutto e avevo messo un piccolino del lineare, un 501, capito? E quel baracchino lì non l'avevo più messo sotto il camion, non l'avevo più messo. Perché poi io quel baracchino lì, prima quando avevo cambiato la centrale, l'ho provato un giorno con me Giancarlo. Siccome quel 750 l'avevo venduto a quello di Ugello, invece quello di Ugello dice, oh, va bene, non funziona così e cosa? E allora me lo sono fatto dare subito indietro, avevo un nuovo 750, l'ho messo sotto e sono andato da Giancarlo, lui è venuto con lo strumento per vederlo se c'era da fare qualcosa, se aveva bruciato qualche finale o qualcosa, e l'abbiamo provato. Con quel baracchino ci ha detto messo a 3 watt e mezzo, 3 watt, 2 watt e mezzo se non mi ricordo, e l'abbiamo provato in quinta marcia, siamo provati in prima marcia, ma questo non dà nulla. Giancarlo, buon anima Giancarlo, perché abbiamo schiacciato la portante e infatti non ce n'era, poi fesseria. Modulo, boom, è stata l'ago, è stata attaccata, è dovuto giambare di cose, si è spaventato qui. Abbiamo messo in sesta marcia, provato in sesta marcia, con 750, con quello lì, con quello che c'è tu adesso. Schiacciavamo la portante, Claudia, 70 watt. La portante molta, modulabili 520. Allora non va a vedere se sono avanti con 120. Quando si cacchia me la portante molta a 70 watt. Positivo. No, ma fa così ancora adesso. Io portante molta ho dovuto mettere 2 watt e mezzo, 3 watt massimo perché c'è una spinta allucinante. Se no riterete per tutti super salutati il pacchetto va va a caricare le batterie, se no qua è la cosa grigia. Ciao Claudio, ciao Gigino, ciao Pinocchio Ermolo se mi sta ascoltando. Vorrei momentaneo la batteria, ciao. Non far dire, fatemi una carica buon tutto là. Ciao Roberto, ci sentiamo, buona carica buon tutto là. Ovviamente ci sentiamo domani se coincide. Io una mattina sono nuovo di nuovo. Nuovo giro di perlustrazione, ma spero di rientrare molto presto. Vediamo un pochino. Di un certo modo ci sei in cambio. E ma sono le 9 o sono le 10? Oh, sono le 21.35. Le 10 meno, quasi meno 20 o... Metà punto questa sveglia, si è detto che fatturate, no? Che sono lui, ma fate sbagliarla, sei metà punto la sveglia qua. Ah, è positivo, ma io scendo un po' cosa, mia moglie non ha voglia, c'è già freddo, e allora ci rimaniamo a casa, non c'è problema, tanto mi a me, poco mi piace se in giro. Ma sto a casa ancora per un pochino, poi spengo tutto, mi guardo un po' di TV, mangio un gelatino e poi non è tornata. Domani mattina ci alziamo alle 6. Positivo, dai. Positivo e caparrocero. Questa è l'ultima in campo. Posso avere la regolazione dei fatti? Prima tutti hanno la regolazione dei fatti, questi baracchini, però invece da dentro... è fatto apposta, è già regolato a 3 fatti, ci vedo, non ricordo, intorno ai 3 fatti, da, non va di più, questo è normale, mi sono con questi 3 fatti, sono 3 fatti, forse anche 3 fatti e mezzo arriva questo, è regolato da dentro, oh, questi fatti sono da dentro, e nel pomello invece di avere la regolazione dei fatti c'è la regolazione della tonnetta della voce, se tu c'è la voce grossa, ecco, vedi, adesso c'è una voce, quasi la voce mia, più bassa la senti, vedi come c'è una voce diversa adesso. Ah, è positivo, ma io sto andando tre notte lo stesso, tre notte e mezzo, no? E mezzo non di più, Gigino. Poi se voglio mi fa la voce più robusta, vedi, più grossa. Ehi, è positivo. No, bueno, questo non lo ricordavo, dove c'è lo squelch praticamente c'è la regolazione, no, sì, dove c'è lo squelch c'è la regolazione dei watt. E l'altro c'è il l'eco. L'eco è il primo e mi pare lo squelch e l'eco, ho sbagliato, mi sono lì della tua, quella che c'è tu e quello centrale è... sono i watt mi pare, ho sbagliato, mi sto, no, è il primo, il centrale è l'eco e il mixing è la ripetizione, lo squelch sono i watt e poi sopra tutti gli altri tasti sono il filtro c'è, poi c'è i canali e le altre cose, non so neanche che cosa sono, non ricordo più lui, infatti non ho toccato niente, ho fatto solo la regolazione che hai fatto tu, basta, è quella che ha fatto quella persona che è venuta a portarmi l'amplificatore. Perché quella persona non sa, gliel'ho fatto vedere io. Ascolta a me, è importante molto il Mickey Gay. Il Mickey Gay non deve essere tutto quanto aperto, lo sai perché? Perché loro lo portano più del massimo, capito? Lo devi leggermente, e però dovrebbe andare bene perché la radio l'ascolto benissimo, bella, chiara, forte, bella, bella, bella. Perché quello ti fa la radio più bella, più chiara e più corposa, chiudendolo, non aprendolo, più lo apri e più squillante sono meno di mezzogiorno tutte e due. Meno di mezzogiorno? Chi è meno di mezzogiorno? Prova a metterlo a vedere. Guarda, così è meno di mezzogiorno, e così è... impressionante di radio, madonna, no, chiudilo un pelino, Claudio, un pelino devi chiuderlo. Oh, hai chiuso, diciamo, un pelino, vai, hai chiuso un pelino rispetto a prima, è a mezzogiorno e 10, anziché essere a mezzogiorno e mezzo, è a mezzogiorno e 10 adesso. Sì, ma guarda, aspetta, sentire una cosa, se io lo apro tutto, dimmi tu, ascoltami. Adesso io è appena è chiuso, no? Come dici tu, appena più di mezzogiorno, mezzogiorno e 10, guarda, eh. Oh, vedi, sta già quasi innescando, vedi, tutto al pezzo, vedi com'è brutto. Qualcosa, tu devi dire solamente questo è un lumaccone. Cosa vuol dire lumaccone? Che uno si toglie il cappello, si abbassa il cappello, che re, non c'è che lumaccone, lo devi aspettare il baracchino, anche 6 mesi lo devi aspettare. Sono Tommaso, te lo può fare in 448, capito? Sono Tommaso perché sono molto molto amici, però per fare quel baracchino lì, un 48 così, ci vogliono 600 euro, ci vuole il Piero Lumaccone, 600 euro. Fare un malattino così come quello. Positivo del cappallocero, ma infatti io mi ricordo che la cifra era quella, Non mi ricordo, se ti ricordi avevamo fatto un accordo noi, mi sembra, che mi ricordo io, perché sinceramente parlando non ce li avevo tutti, e mi pare avevamo fatto un accordo noi. Ma mi era costato, detto, ma 500 euro, una cosa del genere, mi pare che avanzavano 100-150 euro, non ricordo, ed ero sceso la settimana dopo tardi, adesso non mi ricordo, comunque mi era costato una barca di soldi questa radio. Positivo, positivo, ai ai. No, no, quello è un signor apparato, quello che sto dicendo, è un signor apparato, quello ci puoi... c'ha il suo valore quell'apparato lì, te lo sto dicendo, anche se è del 2004, quello c'ha il suo valore, capito? Quello è un lumaccone, capito? È fatto da Piero Lumaccone Sicilia, quello lì, è uno maracchino fatto per contrarre, con controllo, no? Capito? Comunque il discorso è quello, le regolazioni di quel baracchino sono così, il micchino vuole tutto aperto, molti le sento parlare, a volte dico cosa, io provo a chiudere leggermente, su questi preparati così, vanno meglio con pochi watt, poi gli chiedi, hai bisogno di attaccare la presa, però ricordati, se tu adesso aumenti tutti i watt, quella radio non è più bella, senza attaccare nulla, tu aumenti i watt, quella radio non è più bella, e tutta l'altra non è più, non va più bene. Adesso metto gli occhiali per la posizione, insomma, in cui c'è l'amplificatore. Allora, siamo qua, adesso vedere, siamo qua. Allora, guarda, sto aumentando il watt, sto aumentando il watt. Ora, così c'è tutti i watt aperti, guarda, che brutta, mamma mia che brutta. Sì, tu che fea. No, la radio è bella. Però sicuramente avrà aumentato il segnale, ma si è abbassato di radio, Claudio. Ricordati, questa radio qua, più abbassi, adesso perché non c'è, questa non ce l'hai regolata da dentro, si sapeva, quella di me, quella di Massimiliano, quel problema con quella di Massimiliano, l'altro apparato che c'ho in camion. Più la, allora, se io li chiudo tutti, se tu quella arrivata li chiudi tutti, quella radio è fortissima, mi fai in coso, proprio una cosa impressionante, se tu li chiudi tutti infatti, prova a chiuderli tutti. Ora, guarda, con sono tutti chiusi, infatti, tutti chiusi. Manco si muovono con lo strumento, capo. Prova a vedere quante fate c'è così, minchia che radio. È più forte ancora la radio, eh. 2 watt, 2 watt, pieni, pieni, pieni, oh, oh vicino Luca, 2 watt pieni, ciao, gatto. Ascolta, Claudie, tu fai una prova quando c'è qualcuno, non dire niente, io non ti ho detto niente, tu fai una prova, no? Ti chiudi e fai questa prova con i batti chiusi e poi gli apri tutti quanti e dimmi questo passaggio e quest'altro passaggio e poi te lo dico loro la differenza. Ma sai cosa diventa di radio? Una cosa impressionante, più gira meglio ancora la radio, non sembra non te l'ascolti, gira ancora meglio la radio tutti chiusi. Ehi, già l'ho vista, sì, sì, sì. L'ho vista e gira, gira veramente bene, io mi ascolto, sono in cuffie. Sono in cuffie perché se no per l'ascolto fa un po' di casino. Sono in cuffie, ti posso dire, sono rimasto meravigliato veramente, da 2 anni ferma, perché anche se l'ha usata Mauro, non è che l'ha usata molto, capito? Era 2 anni ferma praticamente. Però gira, gira che è una meraviglia veramente, gira che è una meraviglia. Questo lumacone, questo lumacone. Claudio, i vatti tutti a zero, tutti chiusi. Lasciali tutti chiusi che c'è una radio micidiale. Chiusi sono, Gigi, tutti chiusi sono, tanto vedo che lo smitter impazzisce lo stesso, eh. Lo smitter se ne va sul 9, 9, 10, quando muro. L'altro strumento del VAT è lo stesso, sale a 2, 18 watt, 17 watt, 15 watt, no, 15 watt, tutto serrato, ma come te lo paghi la radio? Così che è più forte, la radio, tu di radio fai alla grande adesso, la radio è molto più bella, gira, è una meraviglia, Claudio, meglio, la radio è più bella ancora, più bella, più forte, più penetrante, più forte, è bella pulita, così sono, la cosa sua è quella, dai, vogliono tutti chiusi vanno bene, va bene, va benissimo, Claudio, cazzo gira un bebè, devi solo metterti in mille e botto, lo devi solo metti a ascoltare. Già pare positivo, vai. Mi sto ascoltando in cuffie, mi sto ascoltando Gigi, ed è impressionante, veramente, veramente bella. Veramente molto bella. Ah, abbiamo scelto il muro, che fine ha fatto? È andato a cercare la portante o sta ammazzando il topo che si è seduto sopra la trave? Anche l'ecco, non sentire come l'elicottero come gira meglio, minchia ragazzi, come fate tutti chiusi, gira tutto quanto meglio, l'ecco, è pulito, Claudia, non te lo senti nelle cuffie, l'ecco come gira bello pulito. Ehi, ehi, sento una bella modulazione veramente, a volte dico dovrei fare il cantante, invece mamma mi ha fatto studiare. Potevo benissimo andare a cantare con questa voce che c'ho, capo. Sei gastropo, troppo forte, chiavolo. Sta andando alla grande, no, sta girando benissimo, Claudio. Bello, cazzo, bello, bello veramente, bello, bello, bello veramente. Sta girando una meraviglia. Tienelo conto, Claudio, tienelo. No, non so se è quello che c'è il nome mio, io non c'è stampato il nome mio, non so se è quello lì. Non lo so, Gigi, c'è una targhettina bianca sotto il coperchio, però il nome non si legge più, è bruciacchiato, diciamo, consumato, si legge solo la data 2004, 2004 perché l'ho aperto per vedere se era tutto in ordine, poi l'ho richiuso, non ho toccato assolutamente niente, a parte il fatto che ci sono tutti i sigilli, capito, c'è tutta quella cosa particolare, sicuramente mette il vampiro. E poi non ho mai aperto, l'unica cosa che avevamo fatto, se ti ricordi, qua avevamo cambiato la lampadina e basta, per il resto sbagliata, era attaccata al contrario, non so come abbia messo in fila al contrario, hai capito? Poi avevo preso questo, l'avevo usato per un po' in macchina, nella Citroën, nella Saxo, e poi quando mi avevano trasferito, mi hanno tolto, l'ho trovato a Mauro, e questo è il terzo che io, il terzo baracchino dal 48. In positivo, poi ti ricordi che quello là, prima di Vindivida, mi ha imbucciato a Giancarlo, era tutto in casa, no, ti hanno dato tutto incasinato a te, ti ricordi quel 48, ti ricordi che ha trovato il cacciavettato, ti ricordi? Primo, ti ricordi? Ehi, a quello lì ti sto dicendo, era tutto scacciavettato, ma non quando ce l'avevo io, quando l'avevo venduto. Ah, no, però l'avevo venduto a te tutto scacciavettato, ti ricordi? E poi abbiamo portato la Giancarlo, te l'avevo messo a posto, poi l'hai tenuto un po', io ti ho dato il mio, e tu l'hai dato, non mi ricordo che l'hai venduto quello lì. Mi l'hai messo a posto tu, ma non portato la Giancarlo, ti ricordi? Ti ricordi avevamo portato la Giancarlo, l'avevo portato io, perché era tutto scacciavittato e tirava, che tirava malissimo, ti ricordi? Ehi, sì. Poi ce l'avevo tornato e praticamente l'avevo dato e avevano messo le mani dentro. E allora avevo preso quello tuo, quello che avevi nella barra tu, perché tu ne avevi fatto un altro. Sì, è così. Non mi ricordo chi l'avevi dato quel baracchino lì, però, non me lo ricordo. In realtà non mi ricordo a chi, però. L'avevi venduto, a chi l'avevi venduto, ora te lo ricordi? A Gianni. A Gianni lo più non l'avevi dato quello lì. Positivo, di te non me la ricordavo. Mi ricordavo che l'avevi venduto a qualcuno, ma l'avevi venduto quando l'avevi messo a posto, perché avevo provato a Giancarlo e l'avevamo messo a posto, mi ricordo. Si conferma, l'avevo messo a posto, l'avevo dato a lui, poi non so che cosa era successo, praticamente dice che si dava male, ma non mi ricordo che cosa era successo, Gigi, però era una bella radio anche quella, e poi io avevo fatto dei cambi noi due, avevo preso quello tuo, poi avevo il magno, ma tu avevi 140, non ti piacevi, allora ti avevo dato il magno, avevo preso 140, un casino, comunque le radio le facciamo girare noi, non c'è niente da fare, a me gira che ti gira, mi rientrano sempre le stesse radio, guarda. È positivo, no? Io sono delle date in campo, mi avete durato il 48, mi pare. Non sei caso stesso. Non me la metto, mi pare che il 48 mi avete durato. Così è, ho un omaggio, non mi ricordo. No, c'era un... Vabbè, ma non fa parlare qua. C'era un giro di radio e alla fine tu avevi dato... non mi ricordo neanche io, sono passato un sacco di anni, Gigi. Praticamente tu avevi 140 manotti via via, dopo troppi manopoli via. E io c'avevo un magno che mi avevi dato tu, che era di Favilio, come si chiama, da Don Ippolito. E io in quel periodo avevo bisogno di un'altra KF e ti avevo detto, lui se mi dai il 140 ti do il magno. Avevamo fatto così, c'era una giunta tra me e te, sempre per quella personale, te l'avevo fatto pagare una barca di soldi e quindi ti avevo dato anche una giunta. Dopo quell'operazione lì io mi avevo preso questa, perché l'altra tu l'avevi già venduta. Sì, no, allora il magno non era di Palmieri, io l'ho regalato a Palmieri dopo quel magno lì. Allora ti spiego, quello era, l'avevo fatto arrivare come, era, me l'avevano mandato come campione, capito? E io c'avevo un 68 famoso, da metti 68 che era stato scacciavittato e me l'avevo ripreso immediatamente, ti ricordi? È una storia un po' lunghetta, Ehi, positivo, quello me lo ricordo. E tra l'altro l'ho portato a aggiustare io quel 68 che ha fatto a 48, l'ho portato e l'ho fatto rifare per bene, mettere a posto, viene tutto un attimo che ha già avvistato, capito? Sono riuscito a riprendermelo nuovamente, a riaverlo in mio possesso. e quando l'ho ritirato me l'ha fatto Roberto, quello d'inglese, me l'ha messo a posto. Quando io l'ho messo il giorno, l'ho ritirato, l'ho messo nel camion, me l'ha sentito che stavo modulato quello di Santo Lussurgio, che se aveva preso quel magno da lì, dalla Tamoi, da Marrubio, che era venuto in esposizione quel magno che poi volato a te. Cazzo, ma dice, non me lo dai, cazzo, me lo dai, ti do il magno se me lo dai. E il pianto l'hai già fatto jump, ti sei muovimato in camion, ma la tua magna ti era aiutato quel 68 modificato. E c'avevo quel magno qualche giorno tenuto così a casa, mi pare uno o due dine, e poi un po' dopo un paio di giorni sei sceso tutto e te lo sei portato via, ti ricordi? Era positivo, ma io facevo girare anche bene perché c'avevo il 1,300 m, quindi non aprivo molto l'eco, facevo girare con il 1,300 m e tutti pensavano che avessi un 48 modificato, capito? Perché aveva, mi pare, da una settantina di watt, 60-70 watt, e poi lo facevo girare con il 1,300 m. Andava molto bene e poi avevamo fatto un cambio, e avevo ritornato, avevo preso il 140 che è ancora qua, attento, 140 mi hai dato tu dalla chirurgia, è ancora qua ed è sempre quello che aveva Gianni. Io poi quello lo volevo vendere, quel magno, quando mi è tornato tu, perché non me ne facevo nulla, lo volevo vendere e lo interessava Gianni, poi mi ha detto che l'ha toccato, cagato dagli altri, una cosa del genere, mi ha detto, e niente, io gli ho detto guarda, cioè, mi ricordo queste particolari perché lui mi aveva fatto quella portata e gli ho detto la stessa cosa, lo sto vendendo ma non è perché ho bisogno di soldi, perché non me lo voglio fare. E lì c'era Palmieri il giorno, sapevo che a Palmieri gli piaceva, ho detto guarda, io le volevo, mi sembra 300 euro le volevo da quel magno e lui me le voleva dare molto di meno. Ho detto fa una cosa Palmi, ma ti piace veramente? Allora pigliati la scatola e tu che portatelo via. E glielo regalato. Perché alla fine era così, capito? Quando stai a dire nulla, io sulle radio non ci ho mai speculato, non mi interessa, non ho bisogno di guadagnare 50 euro dalla vendita di una radio. No, non mi interessa niente. Io quando ho dato una cosa, ne ho venduto tantissimi di Kenwood, tantissimi baracchini e tantissime cose. Quando le ho dovute regalare, le ho regalate, non mi sono mai creato problemi, scrupoli, come fa molta gente. Però, ti ripeto, non ci ho mai voluto speculare sulla radio. Io quando so le quotazioni, mi documento, eccetera, quindi le vendo di mercato, non ci devo guadagnare niente. Ti ho dato un 440, da poco un 440 perché ne ho un altro ancora, ne ho ancora 5 di che, 440, 430, 680, 240, di cui ti ripeto, uno è sempre quello che mi hai dato tu, perché ne avevo 6 e uno ho dato a Luca del Monte. Gli ho dato il prezzo che l'ho preso praticamente io, 300 euro, capite? Anche se il valore mio figlio non aveva lavoro, anche se il valore di mercato di quelle radio lo puoi fare tranquillamente tu, però io non ci ho mai voluto speculare. E quindi niente, insomma, tutto qua. Anche su queste radio, quando te l'ho ritornata, ci siamo solo guardati in faccia e abbiamo detto va bene, non siamo stati lì né a guadagnarci le 50 euro tu e né a perderci le 100 io. Quando si fanno le cose si fanno a titolo di amicizia, senza stare lì a replicare o a dire cose che non si devono dire, capite? Positivo, no? Noi abbiamo fatto dei scambi di cose, Claudia, eppure no, senza problema, ci siamo dette le cose subito in faccia, va bene così, va bene a me, va bene a te, noi ci abbiamo parlato, perché io quando dico una cosa, la dico e la mantengo, come hai fatto tu, io sono così, se dico una cosa è così, però se mi vedo poco preso per il culo, se tu tu mi dici fai così, fare dai, di apposta così scherzando che me lo stai regalando. Io te lo dico, lo posso dire scherzando. Cazzo, ma da scherzo a poi tu, scherzando me lo sei preso davvero, allora mi si chiede nelle palle, ma veramente mi Claudio. Allora non guardo più in faccia, non rispetto più io allora, Quel discorso, quello che avevamo fatto una volta di quella persona, che adesso non era tanto, non ero più. Se ti ricordi, ero lui questo, cazzo, e non era il suo, c'è qualcosa da fare, insomma. Queste cose non si fanno, soprattutto con persone alla quale ci tieni, hai un certo rapporto di fiducia, perché poi, cazzo, passi in ballandolo, ma una cosa che non era tua, io ho sempre rispettato le cose degli altri, guarda. Io qua c'ho una radio di Piuncio, me l'ha ricordato anche, cioè una radio di Piuncio, quella che me l'ha fatta, quella l'amplificatore, quello grande che avevo messo a posto una volta, quello grigio, io ho tutto verniciato e fatto, è funzionante, ma non lo uso perché ne ho altri due. E l'altro giorno mi ha detto, ma un sublineare sempre a casa, quando vuoi venire lo vedi, sempre in postazione. La roba che mi ha dato lui è sempre qua, ferma davanti a me, sai quante volte, ma vai, non toccare, non ti avvicinare neanche a quello, perché se ne scende il topo dalla trave ti morsica sicuramente le mani. Perché? Perché non è roba mia e quindi non mi posso permettere di darla, capito lui? Sì, mi ricordo che poi l'avevamo portato da Giancarlo a fargli vedere qualcosa, non mi sbaglio, l'avevamo portato da Giancarlo, mi sembra anche quello lì, vero? Esatto, c'era il trasformatore in corto, infatti Giancarlo gli ha sistemato il trasformatore, poi lo gli ero tutto verniciato, grigio Piemonte, perché praticamente questo è un J27B che praticamente lo fa la Piemonte. Per la 27, quindi per gli 11 metri, un grande lineare, un grande amplificatore da 1000, gli avevo messo le valvole, però quando lo accendevo mi mandava in corto il fusibile. E allora una volta, due volte, tre volte cambiavo sempre il fusibile, ho controllato tutto e poi l'ho messo la palla. Adesso il giorno che mi si girano le palle, lo riprendo in mano, seguo bene il circuito di alimentazione, vedo se c'è qualche interruzione e così lo faccio funzionare, però è sempre qua, perché non è mio, è di Pinuccetto e quindi giustamente quando Pinuccio dice tra Nacchi mi dicevi di uscire lineare pronto, vieni e te lo prendi, non l'ho prestato a Tizio, l'ho prestato a Caio, l'ho venduto, metti per dire a Chirurgo, no, cioè, non si fanno queste cose. Ti ricordi, ne avevo uno a tue valvole, ti ricordi Claudia? L'ho prestato a Luca, l'ho prestato un po' a tutti, poi l'ho prestato a un altro, ce l'ho fatto, l'ho smontato per fare un lavoro, non so che cosa. Cosa facevo allora? Niente, perché l'ha fatto, l'ha smontato e ha fatto, non so che cosa ha fatto. E quello penso che non ce l'ha bene anche lui, quelle lineare lì. Ehi, già c'ero io il giorno in garage, però non so di chi stai parlando. L'ho smontato per fare un accordatore, poi una volta a comprare lo strumento, cazzo, sono convinti che gli strumenti della Daiwa o della MFG o uno strumento serio, non della Betagig, fate cagati, ma uno strumento serio l'avevo incrociato, non ti bastano quelle 70-80 euro a comprarlo. Così. Ci vogliono tutti i potenziometri, ci vogliono essere interruttori, ci vogliono tutte le cose per poter realizzare e costruire un accordatore d'antenna. Non è che lo fai da pezzi di ricambio, capito? E quindi sicuramente è rimasto così da una parte, non va bene neanche quello. E ti avevo speso soldi perché quello io l'ho dato per farlo girare, perché sennò si guastavano le bobine, queste cose, le condensature come si chiamavano, che me le aveva cambiate Giancarlo, quello me l'aveva regalato a me Mirillo me l'ha regalato e mi ha un po' dispiaciuto perché 250 watt dava quelle a due valvole, era vecchio, antico, te la metto tutto, perché era così, bisognava accordarlo, ti ricordi Claudia? Positivo, come questo che ho io adesso, dai, una cosa simile, sono giocatorini che però attaccati a questi marachini ti danno delle ottime soddisfazioni, e allora vanno bene, io sto per spingere un po' qua nel canale, qua a Cicco, vabbè, adesso è ora di fare la bravi e siamo a 3 watt, no? 3 watt, neanche 3 watt e mezzo. Quando c'è propagazione spingi con i 200-250 watt, ecco lì che puoi competere anche con i camionisti, e sono dei giocattolini che meglio sempre averli, capito? Meglio sempre averlo. Però quando tu lo prendi a una persona e ti dice non ti preoccupare, ce l'ho io, poi ce lo vendi, cazzo di persone, non è la prima volta che a me mi è successo, E una, e due, e tre, e quattro volte, poi alla fine trovo una cosa, tu da me non pigli più nulla, punto. Sì, no, ma uno se io dici, ma te l'ho regalato, no, io te l'ho dato a usarlo per farlo funzionare, per non rovinarsi, capito? L'ho dato un po' a tutti, l'ho dato a Pinochet, l'ho dato un po' a tutti, l'ho dato per farlo girare un po', però sempre me lo tornavano, un po' me lo tornavano, Luca l'ha tenuto, l'ha operato, me l'ha tornato, Luca, e così l'ho dato anche a Pinochet, mi ricordo, e me l'ha tornato, giustamente me l'ha tornato, però non so che dire, vabbè, pazienza, no, è andata così, dai, per quello non è che c'ho, però non possiamo forse essere che non devi prestare niente a nessuno. No, una persona è affidabile oppure no, ci sono problemi, Luca è una persona abbastanza affidabile perché io le ho dato l'MC60, che è un microfono professionale, costa quasi 200 euro, e quando mi è servito mi ha detto qua, sto arrivando, lo sto portando, me l'ha portato, ma ce l'aveva parecchio tempo, forse più di un anno, e non ho mai avuto problemi, me l'ha ritornato come il giorno che gli ho dato, ed è una persona affidabile, capito? Ma molti sono veramente da prendere, non guardare più in faccia. Come questo amplificatore mi ha portato quella persona là, cosa io gli ho detto mi serve, dimmi o no, per te non ce ne mi serve, lascialo qua e usalo tu, è come che sia a casa, vuol dire che si fida, se non si, non si fidava non l'aveva lasciato, tutto qua. Positivo, quello è stato un affare che gliel'ho detto, guarda che c'è Roberto, ce l'ha Roberto, ma non so se è vecchio, di molti anni quel consorio recente, no? Guarda, è quello che ti stavo dicendo io, è un VV131, ed è nuovo di zecca, sai cosa vuol dire nuovo di zecca? Molto bello, oggi gliel'avevo detto, glielo facevo, perché lui non l'ha mai aperto, non sa dove toccare, io l'ho aperto, tutto soffiato, tutto pulito, tutto pieno di polvere, ho tolto la valvola, perché è una valvola mai grossa, è una valvola grossa, pensavo che era una PL509, invece è quella modificata, ecco perché da un milliwatt è molto più grossa, è da 200 watt la valvola, è stato modificato con l'ignare. L'ho tolta e l'ho pulito con l'acetone, era tutta nera la valvola perché si crea quella impurità che la valvola non fa raffreddare, al momento lo deve raffreddare perché c'è sempre lo stacco del rene dove la valvola raffredda e quindi rimaneva sempre molto molto calda, adesso invece lavora molto molto meglio, l'ho pulita, lucida lucida, l'ho ripiazzata. E ho pulito bene lo strumento, all'interno la luce è bella bianca bianca, ed è veramente una cosettina che è utile per la stazione, per questi baracchini così, sai, stai sempre andando a 200 watt modulati con queste radio e sono tanti, poi dalla posizione in cui sono io va più che bene, anziché usare quello grande usi questo piccolo attaccato a lui e va bene, GG. sì, quello a Roberto l'avevamo dato perché l'avevamo rotto, non funzionava, non so cosa era successo. Gli hanno dato e Roberto l'ha messo a posto e capito Roberto quello che sto dicendo con l'amico mio, quello tra i baracchini, che fa il lineare anche il braccio, perché a me mi ha fatto un lineare spaventoso per il camion. R facendo quei lavori di lineare, facendo di queste modifichine, queste cose, è formidabile Roberto. E quello Roberto poi me l'ha messa a posto e mi ha detto, lui guarda se interessa a qualcuno, 50 euro glielo do, questo l'ho messo a posto, dice me l'hanno dato perché l'hanno bruciato, non so cosa hanno combinato, e lui sicuramente qualche modifichetta per spingere, per fare gliel'ha fatta, sicuramente ha cambiato valvola, qualcosa. L'ha messa a posto Roberto e mi ha detto, guarda se c'è qualcuno che interessa, dice 50 euro, ti fai dare 50 euro. Ho detto Massimiliano, ho detto non è che ti interessa un lineare per casa così e cosa, hai te quanto? Ho detto 50 euro ne vuole, lo vuoi? Fammelo avere, io avevo chiesto Roberto, alla medaglia te lo prendo io, e infatti l'ho dato a Massimiliano. C'era già un annetto e più Massimiliano a me. No, c'era già, me l'ho detto, c'era uguale lui, capito? Funziona molto bene. Va bene. No, ma sono delle cosettine che servono sempre, capito? Io ce l'avevo questo luce, 31, poi non mi ricordo, anzi l'avevo dato a Luca. L'avevo dato a Luca, era un periodo che aveva necessità, volevo stare lavorando, e mi ha telefonato, mi ha detto, cavolo, posso venire. Vendito, se ti servono soldi, vendito. E se l'hanno ridotto a uno di Alghero, capito? Era nuovo, stesso come questo, però non aveva che da questo, e questo era di più perché la valvola è più grossa, qui adesso sto preparando l'altro, quello appunto di Pinuccio, che ho ordinato le valvole, devono arrivare, e uso quello lì che dà sui, in AM, dà sui 400-450 watt, sempre valvolare, però c'è 5 valvole, però è 4 più 1, e va bene, uso quello lì qua con questo baracchino sui canali 45, capito? Poi quando sarà, vediamo se riesco a procurare quell'altro, quello 501, ci metto quello e lo lascio in quinta potenza, non sto lì a regolare, a fare, ogni volta che lo accendo lui è già pronto. Sì. Oh, guarda, se poi ne procuri, come l'ha dato a me quello che c'erano i finali bruciati, se riesci a procurarne qualcuno di quelli lì bruciati, poi già ci penso io, porto da Roberto, poi i finali già ne è rimasto qualcuno ancora a Germanino originale, capito? Se te ne capita qualcuno bruciato, amici, lo mettiamo a posto. Lo mettiamo a posto, sono belli veramente quelli lì, capito? Anche come alimentatore, anche se c'è il lineare bruciato come alimentatore va bene, perché poi allora ci puoi mettere, ti ricordi quello nero che ti avevo dato qua a buon altare, quello lo puoi collegare benissimo a quello lì, lo sai. Oh, lo puoi collegare bene. Quello c'è Mario, anche da poco siamo visti, so che è a 24 volts. Bisognerebbe fare un lavoro qua di quelli micidiali, posto già ne ho per appoggiarlo, per metterlo, c'è le ventole, c'è tutto. Bisognerebbe fare un lavoro, bisognerebbe chiedere a Giovannino appena ci vediamo, perché Mario mi ha detto vieni, te lo prendi a casa, non ne faccio niente io. Non metterlo qua a casa, devo vedere, scogettare qualcosa, fare qualcosa, che io vorrei trarre avanti. Di Pomponio era. Sì, buonasera a tutti. Come va? Un po' come va cosa? Come sta andando tu? Come va a noi? A noi ci va così, ancora non ci abbiamo lo stomaco vuoto. Come fischio? E come va lo stomaco vuoto ancora? Non avete mangiato? Ci siamo persi in chiacchiere, Antone. Ci siamo persi in chiacchiere e non abbiamo... Ma per la verità non ne ho voglia io. Non so, stiamo a mangiare domani a pranzo, allora mancherà anche a me. Avrei voluto un bel gelato, una bella coppa di gelato, bello, l'avrei mangiato volentieri fresco. Già ci sono i negozi, diciamo. Sì, quello. Ciao, buonasera, mi ha ascoltato. Signore, buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao Gigi, ciao Antonio. No, no, ce l'hai tu e lo usi, quello non quella bestia, e quello mi ricordo dava sui 750, 800 watt e mezzo. Non quella bestiolina. Avanti Gigi Vulcano, per i saluti a Gianni Capri 2. Oh Gianni Capri 2, buonasera, dopo una marea di tempo. Allora un giorno sta a sentirlo, da tanto, ma diversi mesi. Gianni, ma che fine avrei fatto Gianni, Capri 2? Giusta, perché diciamo tutta gente tranquilla, già, perché ci vuole anche un po' di passione su queste cose. Se non c'è passione, no, niente, capito? Perché purtroppo un po' di passione ce l'abbiamo, se no saremmo stati qua attaccati a questi apparati, dietro questi apparati, capito Gianni? Comunque volevo dire una cosa, Claudio, sai che c'è la Mario, mannaggia, non ho più sentito, Mario, mannaggia, la mia, Mario, no Mario Mauro, Mario, ma l'arco Mario, come si chiama? Mario, ma nominativo come? Manselle. Oh bravo, lui ce l'ha quello il grande però Gianni, lo sai tu, di quello a 220, invece a Vele quel 501 c'ha l'altro che da 700 e rotto in batte, quello lì c'ha lui, anzi scattemi. Ah, 2001, no, è il 2001 quello lì, l'aveva già Antonio Fochè, il 2001 non aveva fatto a Salvatore Maestrale lui. Si chiama 2001, è il gemello di questo che ho io qua adesso, il gemello così grande, aveva fatto qualche lavoretto con Pugno, mi si aveva fatto qualche lavoretto, e quando l'attaccava Romanzano da tanto di mio, qualche mattina presto che entrava si ritendiamo in Maccomiri, l'attaccava al chivo addirittura quel coso lì, e quello lì con lineare grosso, quello c'ha il dettagliere, non il 1200, l'altro, il 750 c'ha dentro, proprio il 750 c'ha della 7G, insomma no, quello che da 700 watt, da 700 watt da, e ce l'ha Mario ce l'ha quello lì, non penso lo stia adoperando, può darsi, ma non lo so, se lo riesci a contattarlo, può darsi che lo dia pure Mario quello lì. Ma io roba così prestata no, se fa pericolo, si può bruciare una valvola, si può rompere qualcosa, io voglio roba mia, fino a quando è una cosa piccolina così, come mi ha dato quella persona là, va bene, ma una cosa così io se me lo vendo lo compro, non c'è un problema, insomma te l'ho detto, me lo affusavo, mi ordino il gemello di quello che ho dato a te, me lo ordino proprio e me lo prendo nuovo e non se ne parla più, lo collego qua alla lo faccio girare solo con la 48, ho capito, perché grazie a Dio gli altri radio non ne ho problema, è giusto per avere tutta la potenza che mi serve qua sulla 48, devo farlo girare alla grande, ormai le posizioni sono queste e allora appena è possibile lo facciamo girare così. Una richiesta ufficiale, perché se no qua me ne mangio le orecchie con questo modulatore di Gino, so come se la volava tu, ma io non ci sento più, mi sta entrando l'eco alle orecchie, se scendiamo, non lo so, al canale 10, attacco la KB23, commuto la KB23, moduliamo con, perlomeno io modulo sempre eco, viva! Senza problemi, se non ci sono problemi. Ma ricordati una cosa, Claudio, c'è la manopola lì, tu me lo giri e lo chiudi l'eco, prova a chiuderlo, cosa succede? O puoi chiudere, mi chiudi, gira la manopola e chiuderlo. Oh, molto brutta, già non ci vorrà chi. Anche perché c'ho questo microfono in mano, già mi sta iniziando, allora io guardo. Se tu vieni qua, l'unico microfono da palmo è questo della RAN 48 GG. Gli altri c'ho tutti i microfoni a tavolo, proprio perché sono abituato anche con le baracchini, la MP3, il Savelda, l'M33, quello della Iaeso, quello della Intec, cioè c'ho tutti i microfoni a tavolo. Quindi se è possibile, altrimenti rimaniamo qua, no, non ci sono problemi. Vai dove vuoi, puoi andare dove vuoi, non sono problemi neanche per me, là. Vai dove vuoi, Cla, dillo a loro dove vuoi andare e che ci seguono. Possiamo passare sul canale 10, così spengo questa radio e attacco l'altra. Sì, va benissimo, Cla, va benissimo, così io forse mi attacco l'altra, così la troviamo, mi attacco il Milan che è da molto fermo, passate che vi seguo.